la vostra squadra del cuore ha vinto, festeggiate con il blues. Se la vostra squadra del cuore ha perso, festeggiate col blues. Se la vostra squadra del cuore va in Coppa UEFA, porca miseria, non ci devo pensare, non ci devo pensare. Benvenuti a Blues Express, una trasmissione senza sigla oggi, in segno di lutto per la nostra pessima prestazione. No, tranquillo. E, care amiche e cari amici, sono Fabio Treves, il Puma di Lambrate, dagli studios di Rock FM di Via Locatelli 1. Ospite, gradito ospite nel studio, l'amico Maurizio Glielmo della Gnola Blues Band. Ciao a tutti. Ciao Maurizio. Sempre un grande piacere. Mamma mia, arrivare a Rock FM. Pensa che purtroppo è la penultima, lo so. Penultima volta, mi dispiace proprio tanto. Ma chi lo dici? Pensare che da Rock FM sono passati anche tanti bluesmen nostri amici. E come? Huey Lewis, Billy Gibbons, la sigla, ragazzi, con la sigla è tutta un'altra cosa. Un saluto affettuosissimo a Shandy, la prima a scrivere sugli sms di Blues Express 335-100-7777. Come dicevo, Maurizio Glielmo, ospite di questa penultima puntata, però non dobbiamo essere tristi, mi raccomando. Assolutamente no. Perché già siamo tristi per altri motivi. Prendiamo un pietoso velo. Anzi, a questo proposito, io volevo iniziare la trasmissione così: siamo noi, i cugini dei campioni, siamo noi. Ci vuole anche un po' di autoironia, dai. Un saluto a tutti i cugini presenti, soprattutto all'amico Nevio di Genova, che penso da quasi 15 anni è uno dei fedelissimi ascoltatori della zona Liguria e dintorni, ed è proprio un interistissimo, ma di più, ancora di più. E quante volte mi ha mandato delle mail di sfottò, e quindi gli voglio dedicare questa trasmissione a lui e a tutti gli altri, in primis all'amico Max De Rio. Gnola, facciamoci subito riconoscere. Io vedo che sei arrivato in studio con una bellissima Gibson acustica, ti lascio i microfoni e poi ci sono tante novità, tanti annunci. Signore e signori, dal vivo a Blues Express, Maurizio Glielmo della Gnola Blues Band. Blues. tell you what I do. I'm going downtown about a murder or two. I'm crazy about a murder. I'm crazy about a murder. I'm gonna buy me a burger and I'm crossing up and down the road. Una versione di Mercury Blues di Steve Miller, senti che roba, era la Gnola Blues Band Live a Spazio Musica. Maurizio, ma veramente complimenti, un gran bel brano che i nostri amici ascoltatori conoscono perché è di casa qui a Blues Express. Un po' di saluti perché sono arrivati tanti messaggi, il più importante è quello di Susi sul lettino del dentista, un dentista rossonero che mi dice salutami la Stella Sestese. La Stella Sestese è una squadra, una gloriosa squadra di calcio nella quale milita il figlio. Un saluto, ciao Enrico, ciao Diana, e poi alcuni che non hanno preso serie così con il sorriso quello che ho detto. Infatti uno dice non ritengo che ci sia parentela con gli altri, sempre forza mia. Ma dai, allora Gnola, parliamo un po' di musica. Come? Io so che adesso arriva l'estate, arrivano i bei concerti, si spera. Sarà in giro anche con la simpaticità Sandra Hall? Sì, che dovrebbe partire intorno al 20 di luglio, dal 20 di luglio al 20 di agosto circa. Ormai con Sandra Hall c'è veramente un gran bel feeling, a real good feeling. E come? Sì, sì. E quindi sei contento di questo? Assolutamente sì, ormai è consolidata la il sodalizio. Allora ricordiamo che di Gnola voi potete sapere tutto, ma proprio tutto, andando a digitare www.gnolabluesband.com. E tra un po' ti verrò anche il MySpace. E vai. Maurizio Gnola Guglielmo. Con Gnola ci accomunano anni e anni di passione per il blues, anni e anni di passione di frequentazione allo stadio, ma e sofferenza. Tra l'altro c'è un aneddoto famoso che è stato anche scritto da qualche parte, era famoso Cassola prima del derby. Non era una frittata, no? No, era una Cassola, io ho visto la Madonna San Siro. Andiamo avanti, caro Maurizio, io ti ho portato un disco che forse neanche tu hai, è un brano di 23 anni fa, nel quale tu cantavi e me lo ricordo con tanto piacere. Ma ti ricordi Quanta Neve? Ma Quanta Neve, e poi ogni volta che suonavamo questo brano c'era il nostro bassista che piangeva dall'emozione. Lo vogliamo dedicare tutti e due alla piccola Susi che in questo momento e sul lettino del dentista. Auguri. Auguri, ciao Susi. Questa è Black Knight, Travis Blues Band, featuring on guitar Maurizio Guglielmo della Gnola Blues Band. night is falling. Say how I hate to be alone. Cry for my baby, just another day has gone. Black Night is Falling, Black Night is Falling, da un album della Travis Blues Band datato 1985, sono stati 23 anni, pazzesco. Esatto. Ma quanti anni sono passati? 23, però ne sono successe di cose. Mamma mia, quante coppie abbiamo vinto? Tante, Barcellona, tante, Atene, tante. Mamma mia, Vienna, io mi ricordo quel gol lì di Rijkaard, Vienna. Ne abbiamo viste veramente tantissime. Ma quanti scudetti, ma tanti. La cosa curiosa di questo brano che abbiamo ascoltato, che mi ricordo che tu hai voluto scambiare gli strumenti e hai fatto la solo di armonica. Sì, però tu hai fatto anche un bel solo di chitarra. Oddio, magari avrei potuto fare di meglio, però comunque sia, è anche una particolarità. C'è anche, ancora quell'armonica che ho usato. Ah sì? Sì, bene, sì. Allora tienila lì che potrà sempre servire. Magari ci vieni a salutare. Fra altri 23 anni. Sì. No, magari ci vieni, io ho saputo prima che tu suoni il 31 sera. Tu sai che qui c'è il gran finale, la non stop, dal venerdì alle ore 18 al sabato alle 18, quindi sarà proprio un continuo. Sì, tra l'altro noi abbiamo provveduto a mettere delle frecce all'ingresso di Milano per quelli che arrivano dall'autostrada del Sole e dalla tangenziale est-ovest, con una indicazione, è una chitarra Firebird con su scritto Rock FM, e lì mandiamo, qui in via Locatelli 1, indirizziamo tutti i nostri amici che arrivano dalla Toscana, dalla Liguria, dal Canton Ticino, eccetera eccetera. Dicevo che potresti portarla qui e suonarla qui in questa meravigliosa diretta di Rock FM. Noi ti aspettiamo e tu fai il passaparola tra i tuoi amici. Adesso io ti vorrei far ascoltare un brano. Ti ricordi Johnny C? C'era una cassetta che girava di Johnny C. È quella che avevi fatto. E adesso io ho scoperto che John Cohan, proprio nell'83, in quegli anni, suonava in questo gruppo stupendo con dei altri tre nomi che l'amico Faulisi conosce a meno dito: Sam Bush, Pat Flynn e Bella Fleck. E il gruppo si chiama New Grass Revival. Questo è un brano volevo molto dire che bello. Non l'ho più rivista quella cassetta. Ce no, l'hai no, ancora sono tu, ancora no? Wild Freightliner Blues, le New Grass Revival. Questa è una puntata speciale, la penultima puntata speciale di Blues Express, come direbbe l'amico Ariel. Ciao. To them big trucks blind, I'm going out on the highway. Listen to them big trucks blind. Oh, I'm afraid I want to steal away my mind. registrato in Francia nel 1983, questo bellissimo disco dal vivo, New Great Revival, Sam Bush, John Cohen, Pat Flynn e Bela Fleck, New Great Revival. Sono arrivati molti messaggi. Uno che ve lo voglio leggere, la Poiana commossa dice: che bello se fossi stato a suonare con la tua band a Bassano del Grappa, a Raduno degli Alpini, che Dio benedica il blues e la sgnapa in eterno. Poiana commossa, mandi, ciao. E poi ancora Ange 54 dice: che bella musica, ragazzi. E poi che inizio, Puma, Bonnie. E poi Susanna da Firenze, fila pazzesca sull'autopalio verso Firenze che bolgia, meno male che per ora c'è il Puma col blues a farci compagnia. E queste sono le mail che io ricevo, ma anche gli altri colleghi di Rock FM ne ricevono dello stesso tenore, ed è un vero peccato che tutto questo finisca tra poco più di 10 giorni. Andiamo avanti. Gnola, della Gnola Blues Band, ospite in studio a Blues Express a Rock FM. Allora Gnola, io adesso ho preparato un altro album che tu hai inciso, sempre con Sandra Hall, però. Sì, e... l'unico che ha inciso con Sandra Hall. Ah, uno Red... solo ne ha inciso? Per adesso sì. A me avevano detto che ne aveva incisi 12. 12, sì. E avrei scelto 16. Red Bone Woman, è giusto? Red Bone Woman. A me avevano detto che ne aveva incisi 16. 16. Uno per ogni scudetto. E allora andiamo avanti. E dice: ho appena preso il temporale in bici, ma questa musica mi rinfranca. Non vi ringrazierò mai abbastanza, Filippo da Dozza. E prima di far ascoltare Sandra Ole e Maurizio Glielmo della Gnola Blues Band, io vi volevo leggere una lettera, perché è bella. E dice: caro Puma, mi manca il tuo programma. Ormai non ascolto più Radio Rock FM da quando si sono perse nell'aria le frequenze nel Veneto orientale. Io sono la Valle di San Donà di Piave e continuo sempre ad ascoltare blues, anche se il mio nuovo lavoro di soccorritore in ambulanza non mi lascia più molto tempo. Comunque non ho perso tutto quello che dal tuo treno del blues mi ha insegnato, e non passa giorno che durante il mio lavoro, guardando in faccia la sofferenza dei miei pazienti, non canti dentro di me il blues che mi dà la forza di donare un sorriso. Vai Vale, sei veramente la più mitica in assoluto. E adesso ascoltiamoci Gnola e Sandra Oh in Red Bone Woman. Feet.